Un nuovo mixer digitale, un misterioso fruscio sul canale 24. Voci e brandelli di notizie da una radio del domani. Questo è Canale 24, reportage dal futuro di Maurizio Melis. Benvenuti a Canale 24, prima puntata di questo speciale estivo che andrà in onda e ci accompagnerà fino a fine agosto. È tutto cominciato con questo strano fenomeno fisico che si è verificato qui a Radio 24, la comparsa di questo strano fruscio sul canale 24 del nostro nuovissimo mixer digitale. Ogni tanto delle parole che abbiamo capito provengono da una radio lontana nel futuro, non sappiamo esattamente quando, ma ogni settimana vi riferiremo di una di queste notizie e la commenteremo in studio. Cominciamo così, sentite. Caos oggi sulle strade di Milano. Francesco Beretta, utente del servizio di car sharing automatico Stramove, stava portando con urgenza la figlia in ospedale a causa di un malore, quando il mezzo, per un problema ad un faro, ha accostato, comunicando ai passeggeri l'impossibilità di proseguire. Beretta ha quindi preso il controllo manuale del veicolo, cosa che, come ha spiegato in seguito, non faceva da 20 anni, seminando il panico e causando almeno 2 tamponamenti, i primi dall'inizio dell'anno. La vicenda ha riaperto il dibattito intorno all'opportunità di rendere più flessibile alle richieste degli utenti i veicoli a guida automatica, con la possibilità al limite di commettere piccole infrazioni in situazioni di emergenza, su richiesta e sotto la responsabilità del passeggero. Era la nostra notizia dal futuro, un futuro in cui evidentemente le auto che si guidano da sole saranno la norma. Per la verità questa è una previsione facile. Pensate che la prima auto a guida automatica risale al 1984, prodotta dalla Robotics Institute della Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Nell'87 il progetto di ricerca paneuropeo Prometheus mise sul piatto 749 milioni di euro dedicati al settore della guida autonoma di veicoli a motore, e nel 94 il team guidato da Ernst Dieckmans dell'Università di Monaco e Mercedes-Benz portarono su strada 2 veicoli che percorsero più di 1000 km di autostrada in condizioni di traffico standard a una velocità che raggiunse anche i 130 km orari. E per il 2020 tutte praticamente le principali case automobilistiche dichiarano di voler mettere in commercio veicoli a guida autonoma almeno per determinate tipologie di tracciati, a partire per esempio dalle autostrade e dai parcheggi. Ma il progetto più famoso è quello lanciato da Google, che nel 2010 realizzò un'intera flotta di veicoli che percorse più di 1400 miglia sulle strade californiane. Oggi siamo arrivati a 1 milione di miglia e la Google Car sta per entrare in una nuova fase del suo sviluppo. Sentite. Portare questi veicoli in pubblico e permettere alla gente di interagire con essi ci consentirà di vederli in azione. Questo è molto importante. È un passo necessario per arrivare a vederli guidare in autonomia. Quando pensiamo alla sicurezza, quando pensiamo di offrire mobilità alla gente, e allora quando inizi a pensare a lungo termine all'impatto sulle città, al fatto di riappropriarsi dello spazio, ridurre le congestioni di traffico e liberare parcheggi. Ecco, tutto questo è qualcosa su cui noi possiamo dare un forte contributo. Era Chris Urmson, direttore del progetto Google Car. Ebbene, queste piccole automobili elettriche a guida automatica inizieranno a circolare liberamente per la cittadina di Mountain View proprio questa estate. Mountain View è dove Google ha sede. All'inizio saranno 25 i veicoli in circolazione però se tutto andrà bene saliranno rapidamente a 100. Ma quali sono i vantaggi di auto che si guidano da sole? Naturalmente avremo del tempo libero durante il viaggio, in macchina potremo lavorare, parlare, dormire. E ricordando che oltre il 90% degli incidenti stradali è causato da errori umani, è del tutto realistico aspettarsi più sicurezza sulle strade. Ma ci sono altri effetti che ci possiamo aspettare a cascata. Una probabile conseguenza è la progressiva trasformazione del modello di proprietà. Per esempio, chi paga se l'auto che si guida da sola fa il botto, il conducente o il costruttore? Il problema si risolve da solo se immaginiamo che l'auto non sia di nostra proprietà, ma di un servizio di noleggio o di car sharing. D'altronde, oggi l'unica scomodità del car sharing è dover andare alla ricerca dell'auto e il fatto di non poterla magari parcheggiare sotto casa, magari con le borse della spesa piene. Ma se l'auto viene a prendermi da sola, sotto casa mia, e poi quando ho finito se ne va a cercarsi un parcheggio per i fatti suoi, è facile immaginare, insomma, che non avremo più molti motivi per desiderare di possedere un'auto di proprietà. Insomma, si va verso una situazione che vede l'auto come un mezzo pubblico individuale, con altri benefici ancora. Infatti, invece di avere auto che passano più del 95% del tempo parcheggiate lungo le strade, avremo auto usate 10 volte tanto e strade e anche marciapiedi molto più liberi. Insomma, un cambio epocale. Ma se l'auto a guida automatica sarà quasi certamente un ingrediente della mobilità del futuro sulle distanze medio e brevi, quale potrebbe essere il futuro dei viaggi sulle lunghe distanze, quelle che oggi copriamo con aerei e treni ad alta velocità? Una possibile soluzione va sotto il nome di Hyperloop ed è in un certo senso proprio un incrocio tra un treno e un aereo. È un mezzo di superficie, eppure come un aereo vola in un'atmosfera rarefatta e soprattutto è velocissimo, 1200 km orari, la velocità del suono. Hyperloop è un'idea lanciata da Elon Musk, miliardario americano, fondatore a suo tempo di Amazon, oggi gestisce SpaceX, che si occupa di razzi vettori, tra l'altro uno esploso pochi giorni fa, è anche proprietario fondatore di Tesla. Elon Musk ha dichiarato di non avere tempo di occuparsi anche di sviluppare Hyperloop, perciò ha pubblicato il concept di Hyperloop in open source, invitando chi ci credeva a svilupparlo. Ma che cos'è Hyperloop? Lo sentite descritto con le parole di Gabriele Gresta, che è investitore di Ventura, in Italia ha creato l'incubatore Digital Magics e insieme al socio tedesco Dirk Alborn è il fondatore di Hyperloop Transportation Technologies, startup che sta appunto cercando di sviluppare la tecnologia Hyperloop. Sentite. Canale 24. Beh, è una cosa molto semplice. Immaginatevi un tubo, in questo tubo viene inserita una capsula, la capsula è in grado di levitare con un sistema, diciamo, misto di levitazione, all'interno del tubo viene sottratta l'aria, viene portato a 100 pascal, quindi un sottovuoto, diciamo. Sì. Questo svuotamento permette alla capsula di muoversi con pochissima resistenza. Certo. Normalmente ci sarebbe un effetto detto di Kantrowitz, cioè la capsula nel muoversi in avanti comprimerebbe l'aria e in questo modo rallenterebbe moltissimo. In realtà usiamo un compressore all'interno della capsula che risucchia l'aria da davanti e la spara dietro. In questo modo la resistenza è bassissima e siamo in grado di raggiungere velocità che ad oggi toccano quasi Mach 1, cioè 1265 km all'ora. Ad altezza suolo. Quindi vorrebbe dire fare Milano-Roma in 25 minuti. In circa mezz'ora. Ecco, questo tubo, voi lo immaginate a 6-7 metri di altezza, quindi montato su dei pali, qualcosa di questo genere. E quanto è largo? Sì, allora, sono 12 piedi, quindi tradotto dovrebbe 4 metri essere... più o meno. Esatto, la capsula invece sono 9 piedi, quindi è un pochino più... Circa 3 metri, più piccola, sì. Diciamo. Sì. E quante persone ci stanno in una capsula? Tu parli di 7 metri, ma in realtà immaginatevi che la capsula deve andare il più dritto e il più stabile possibile. Diciamo che sono altezze, certo. Si fa in modo che seguono un po' il territorio, certo. Quindi in alcuni punti abbiamo anche 100 metri di piloni. Abbiamo 28 persone nella capsula di economy e poi stiamo progettando una serie di capsule speciali per la prima classe, ma anche per malati, per esempio per i bambini, capsule per il learning, abbiamo anche capsule per il freight, cioè per il trasporto merci. Il progetto naturalmente è un progetto molto complesso, si tratta di mettere in piedi un'infrastruttura che attualmente non esiste, completamente nuova. A che punto siete, che percorso avete immaginato di fare? Allora, siamo partiti dal documento iniziale e abbiamo iniziato a ragionare sul miglior modo di attuarlo. Dopo un anno e mezzo siamo arrivati a uno studio di fattibilità e abbiamo scelto di costruire il primo prototipo a nord di Los Angeles. D'accordo. Sono una città che nascerà completamente sostenibile, una città del XXI secolo che è completamente a consumo passivo, quindi come si chiama? Come si chiama? Quay Valley. Quay Valley, sì. Sì, è proprio lungo la 5, che è una delle dorsali, diciamo, autostradali più grandi della California. Il tracciato sarà di 8 km lungo la 5, quindi sì. Immaginatevi di arrivare lungo questa autostrada e di vedere l'Hyperloop che parte con una stazione dall'inizio della città e poi all'ultimo tratto passa in mezzo all'autostrada, quindi sarà un punto diciamo anche di attrazione turistica, perché in quel punto faremo il tubo trasparente. Okay. Quindi le capsule si potranno vedere sfrecciare. Iniziamo a costruire nel 2016 e prevediamo di finire nel 2018. Successivamente poi abbiamo ricevuto vari interessi da parte di stati, diciamo che sono quegli stati, diciamo, che non hanno infrastrutture e che quindi hanno una facilità sia decisionale, perché c'è una persona che decide, okay, sia dal punto di vista pratico implementativo, perché non hanno, immaginate per esempio gli Emirati Arabi. Ecco, stavo per dire, mi sa tanto che finiamo da quelle parti, perché ci sono i soldi, c'è tanto deserto e nessuno si lamenta quando gli si mette un tubo in mezzo, e c'è uno solo che decide sostanzialmente. E c'è un motivo strutturale, lì non possono costruire le alta velocità, sì, per via della sabbia, sì. Che è un nemico. È un grave problema, oddio, ci stanno provando, e comunque le infrastrutture ferroviarie da quelle parti hanno questo problema in più. Senta, immaginiamo che diventi la normalità questo sistema, magari anche altri concorrenti. Come potrebbero essere inseriti dentro il sistema della mobilità? In che modo li vedete? Vediamo il nostro sistema come una metro, però una metro che collega città e è subcontinentale, però noi non possiamo andare sott'acqua. Però se noi mandiamo i passeggeri da Roma a Milano in 25 minuti e poi ci mettono 2 ore per arrivare alla stazione, non appunto, abbiamo risolto niente. Appunto. Quindi la nostra visione è questa. Noi, immaginatevi di essere in qualsiasi punto di Milano, premi un'app, un bottone su un'app che fondamentalmente ti localizza, una macchina ti viene a prendere, può essere una self-driving car. Sì, una di queste auto a guida automatica che probabilmente arriveranno. Esatto. La self-driving car ti viene a prendere, tu, diciamo, in mediamente 7 minuti arrivi alla stazione Hyperloop locale, dalla stazione Hyperloop locale vieni mandato con una capsula locale, sì, alla stazione principale, certo, da lì certo, mandato, quindi, alla, diciamo, destinazione. Quindi ci sarà una parte periferica di questo sistema dove magari non si va completamente sotto vuoto, dove non si viaggia a 1200 all'ora ma magari a 200 all'ora, esatto, che poi porta sulla dorsale principale dove si viaggia sotto vuoto ad altissima velocità. Quindi, esatto, serve un sistema. Immaginatevi che noi, essendo su piloni, possiamo utilizzare le infrastrutture che già ci, certo, sono. Certo, lungo le strade. Lungo le strade, in mezzo alle autostrade o nelle ferrovie che già attualmente abbiamo. Bene, grazie a Gabriele Gresta, fondatore, dicevamo, di Hyperloop Transportation Technologies. Ricordiamo che lo stesso Elon Musk, che comunque continua a sostenere il progetto, ha indetto un concorso per il design delle navette. Si svolgerà nel 2016. Designer italiani, fatevi sotto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domenica prossima.